Buonasera, benvenute e benvenuti, grazie di essere qui al Teatro Franco Parenti per questo episodio di Cabaret Extra Voltaire. Noi siamo Laura Canella e Martina Alessia Parri e siamo le ideatrici e le curatrici di questo progetto. Cabaret Extra Voltaire è un podcast radio show registrato dal vivo che è dedicato alla drammaturgia contemporanea al femminile e nasce nel febbraio del 2025 in un'associazione culturale e sociale che si chiama Exalge a Milano e nasce proprio come un esperimento radio, podcast e di teatro insieme. L'obiettivo è riportare voce e testo teatrale al centro dell'esperienza artistica, prima e a volte oltre la rappresentazione, anche in spazi non teatrali, per incontrare pubblici differenti. Invitiamo le autrici a leggere i loro testi, spesso inediti o in lavorazione, e poi apriamo una conversazione che attraversa i temi, le scelte di scrittura, le difficoltà e le domande ancora aperte. Cabaret Extra Voltaire è anche un laboratorio di ricerca dove il testo può essere quindi messo alla prova e ascoltato. Cabaret Extra Voltaire è uno spazio di libera espressione, quindi di ascolto e di attraversamento critico della drammaturgia contemporanea, con un'attenzione particolare alle voci femminili e alle scritture che interrogano il presente. È un progetto che accende un riflettore sui testi per abitarli insieme, per fruirli al di fuori dei formati consueti della rappresentazione, restituendo valore alla parola e alla sua capacità di generare pensiero. Crediamo che l'arte possa e debba essere un luogo di dissenso e di immaginazione politica e che il teatro sia, prima di tutto, un territorio di incontro, uno spazio capace di tenere insieme complessità e differenze. Rifiutiamo ogni forma di violenza, di oppressione e di cancellazione e ci impegniamo a dare voce a ciò che spesso resta ai margini. E oggi infatti dedichiamo la puntata a un testo di Beatrice Gattai con Petrolio, una storia a colori, testo che affronta la violenza di genere, sessualità, disabilità e il rapporto tra corpo, desiderio e potere. Questa è la prima volta che Cabaret Extra Voltaire entra in un teatro, di solito lavoriamo anche in spazi e soprattutto non convenzionali, quindi siamo grate al Teatro Parenti di ospitarci per presentare un testo prima del debutto, perché questo testo debutterà domani 15 gennaio fino al 25 di gennaio. Beatrice Gattai, l'autrice di questo testo, ci leggerà alcuni estratti del testo insieme a Andrea Vintozzi, che leggerà le parti di due personaggi, perché in questo testo si vanno a incontrare tre differenti generazioni e una più grande, che è quella che Alberto leggerà al posto di Andrea leggerà al posto di Alessio e Natasha invece che è la parte appunto di Beatrice. Ci tengo a precisare che questo testo fa parte della compagnia del progetto PAT, Passi Teatrali, che è un'associazione culturale che si occupa anche della promozione di drammaturgia originale tra le varie cose che fa, e colgo appunto l'occasione per presentare la direttrice artistica di PAT, che è Gladys Cinque, visto che potrà rimanere solamente poco, chiederle due cose rispetto appunto al progetto PAT, che appunto ci ha fatto conoscere il testo di Beatrice e ci interessa per collaborare insieme anche in futuro. In particolare volevo chiederti che cos'è PAT e di che cosa si occupa, quali sono i progetti che PAT porta avanti. Sì, innanzitutto grazie per averci ospitato in questa puntata speciale, grazie al teatro per ospitarci. PAT è PAT Passi Teatrali, un'associazione e compagnia teatrale che nasce nel 2008 e fin da subito abbiamo sempre messo in scena testi di drammaturgia contemporanea, quasi sempre inediti, quindi originali. Nel 2021 poi, durante il Covid, visto che non potevamo fare nulla, eravamo chiusi in casa, è partito un progetto che su cui riflettevamo da tanto tempo, che è un concorso di drammaturgia, che è unico nel suo genere perché il premio che noi mettiamo in palio è la messa in scena dello spettacolo. Spesso i concorsi di drammaturgia sfociano in delle residenze, dei tutoraggi, delle letture sceniche. Il nostro concorso invece, il testo che vince, noi come compagnia lo produciamo, lo mettiamo in scena e lo facciamo circuitare all'interno della rete PAT Passi Teatrali, che è composta e sta crescendo sempre di più di vari teatri, la maggior parte indipendenti nel territorio nazionale. Quindi quest'anno, l'anno scorso c'è stata la terza edizione, okay. Quindi prossimamente verrà messo in scena il vincitore E poi da quest'anno abbiamo anche un nuovo progetto che non è drammaturgia contemporanea perché è un riadattamento di Shakespeare, però è un riadattamento particolare perché faremo Il sogno di una notte di mezz'estate in modalità immersiva nella natura e nel bosco di Cascinette, che è partner di Patti in tanti progetti. E anche in questo, cioè questo faremo anche, dedicheremo una puntata a questo progetto perché appunto si occupa anche di portare il teatro in modo diverso nel territorio, quindi sì, non è drammaturgia originale, però è comunque una messa in scena molto originale, diciamo. E quindi siamo molto curiosi di, anche noi, di scoprire di che cosa parla questo testo. E grazie. No, grazie a voi veramente, grazie al pubblico per essere qui presente. E adesso lascio la parola a Beatrice Gattai e Andrea Vintozzi. Continuo a sbagliare. Grazie mille. C'è qualcosa che mi devi dire, Emma? Niente. Emma. A scuola si sono arrabbiati. E perché si sono arrabbiati alla scuola? Non lo so. Ah, non lo sai? Secondo me lo sai. Perché si sono arrabbiati alla scuola? Che cosa ti ha detto mamma? La mamma mi ha detto che qualcuno qua non ha lasciato uscire la compagna di bagno che ha provato di baciare lei, è vero? No, no, non è vero. Mamma, perché ha provato a baciare lei? Sai che sono gelosa. Jessica, la mamma ti paga, non mi trattare come un bambino. Oh, io ti tratto come un bambino? Cioè adesso ti sto trattando... Ah, va bene. No, no, rimetti mano. No, metti tu mano, hai detto, scusa, ti tratto come uno bambino, non ho voglia di giocare. Io adesso voglio giocare, metti no mano. Però tu mi dici perché hai provato a baciare a quella ragazza, Tu metti mano e io te lo dico. Perché? Perché è bella. È bella, eh? E? Basta. E basta? Sì. Quindi tu pensi che se una è bella tu puoi baciare a lei senza che lei voli? No, senza che lei vuole. Lei mi piace. Sì, però tesoro, non è che puoi andare in giro a baciare a tutte solo perché ti piacciono, I miei amici dicono di sì. Amici? Sì. E chi sono questi amici, scusa? Metti mano. No, dimmi chi sono questi amici. Metti mano. E ma, chi sono questi? Ti danno li consigli? I miei compagni di scuola che mi aiutano con Magda, metti mano. E che consigli ti danno, scusa? Mi dicono che se la ragazza porta pantaloncini io ci posso provare. E oggi Magda aveva la gonna. Allora sono scemi questi amici, No, Jessica, io sono scemo. Sì, tesoro, tu sei scemo, però perché vai da questi invece che di me, che sono donna, che lo so cosa ci piace. Sì, e che cosa ti piace? Intanto mi devi dire perché ti piace lei. Perché è bella. Sì, amore, ma quanto è gentile, simpatica. Nessuno è gentile e simpatico con me. Scusa, ma vaffanculo, io? Vaffanculo su, Jessica, la mamma ti paga. Ma io non sono mica gentile così con tutti i clienti, sai? Sì, e allora mi vuoi sposare? Corri un po' troppo. Eccolo, vedi che nessuna mi vuole. Io sono una prostituta, su, è giusto che non ci sposiamo. Tu devi sposare una pura, no? Come te. Ma tu sei pura. Jessica? Sì? Secondo te la incontrerò mai? Chi? La mia ragazza. Amore, non lo so, non credere che è facile, Io il mio l'ho già incontrato, però non tutte le anime sorelle si incontrano. Cosa? Niente. No, cosa ho detto? Ne sei buffa. Perché ho detto una delle mie cazzate? Sì. E che ho detto? Non te lo dico. No, dai, dimmi. Se no faccio le figure di merda, dai, dimmi. Tu hai detto anime sorelle. Ma non si dice sorelle, si dice gemelle. Anime gemelle. Ah, ok. Non tutte le anime gemelle si incontrano. Sì. Mi prendi in giro, Mannaggia te. Ma perché non tutti gli uomini sono come te, E come sono? Sono stupidi. Sì, stupidi perché ridono quando toccano il culo a una ragazza o se gli alza la gonna, la chiama puttanella. Sì, io sono puttana, però non tutte le ragazze lo sono, Alcune sono pure. E quando gli uomini le trattano così, come te e i tuoi amici avete trattato la Mada oggi, quelle si dimenticano che sono pure. Però sai cosa si deve fare con questi, eh? Quando ti trattano così, li devi richiamare. Guarda, chiamalo. Ehi tu, scusa! Ehi tu, scusa! Stronzo! Stronzo? Ti piace a te se io parlo così alla tua sorella o alla tua mamma? No, mamma no. Ah, no, la mamma no. La no, mamma no. Ti piace se parlano così alla Gabriella? No, la mamma no. E ecco, lei deve rispondere. Ecco, io sono mamma qualcuno. Se tua mamma dice io sono la mamma di Emma. Hai capito? Gira la rotellina, eh? Hai capito perché non mi piacciono i tuoi amici della scuola? Sì. Ho capito. Mi prometti che non ascolti più a quelli? E tu mi dai un bacio? Solo se prometti. Tu dammi un bacio, io prometto. Non ho sentito niente. Prometti, eh? Mm-hmm. Prometto. Jessica, cambia suoneria, non mi piace questa. Cambia suoneria. Gabri, sei giù? Scende subito. Dai, andiamo. No. Sì? No. Dai, ma così alla madre piacciono i bambini? No, non piacciono i bambini. Ecco, pensavo io. Allora, su, alzati. Jessica? Sì? Ti piacciono i miei jeans? Sì, sono carini. Carini o carinissimissimissimi? Carinissimissimissimi. E la mia giacca? È bella, è nuova? No. Beh, è bella. Jessica, togli il cappuccio! Togli il cappuccio, scusa, Jessica! Scusa, ma non l'ho fatto apposta, scusa! Calmati, che non l'ho fatto! Oh! Ma! Ti ho chiesto scusa, non l'ho fatto apposta! Mi sono dimenticata! Non ti devi dimenticare! Sì, però tu non devi urlare! E tu non ti devi dimenticare! Ti ho chiesto scusa, ho detto che mi dispiace, cerco di non farlo più. Però qua c'è una regola, che non si urla, eh? Ora tu chiedi scusa a me. No. Scusa? No. Va bene, allora qua non ci vieni più. Scusa. Non ho sentito. Scusa. No, guarda, levati la mano di davanti alla bocca che non capiscono cazzo niente, che... Jessica Cuta. Ecco. Le scarpe le mettiamo fuori, ok? Sì, le scarpe fuori perché sono grandissimissimissime. Ah, Jessica, la parrucca. Ah, scusa, è importante la parrucca. Mia moglie mi ha buttato fuori di casa. Per chi? Credo sia finita. No, Giuseppe, scusa, metti via quello a fare che devo pensare un attimo. Sì, dai, Giuseppe, no, vai di là, no, che devo pensare da sola. In quali parti ti devo pensare da sola? Noi capisci. Da sola, dai. Giuseppe, non riesco a ascoltare quello che mi dice lo cervello se tu ci parli. Cervello, dai. Sono serio, vai di là un attimo. Ma scusa, tu hai detto a lei le cose che ci siamo detti l'altra volta? Giuseppe? Oh! Ma stai male? Non importa, dai. No, sì che importa. Perché non le hai detto quelle cose? Perché non ho fatto nemmeno in tempo a togliermi le scarpe. Nemmeno a salutarla che se ne esce subito con la storia del bambino. E che mi propone? L'utero in affitto. Ma che cazzo è, dai, su. Ho sentito parlare di questa cosa, non va bene? No, per me no. Perché no? Perché no? Vabbè, lei cosa ti ha detto, te? Lei si è imbufalita perché ho detto di no. Allora, io le ho rinfacciato anche che lei non voleva sentire ragioni per l'adozione quando gliel'ho proposta, no? E capirai, figuriamoci. Non l'avessi mai fatto. È partita con il vittimismo. Perché? Perché ha avuto la faccia tosta di dirmi che dopo tutte le iniezioni, gli ormoni, le visite che ha subito, chi ha diritto di dire basta a sto stramaledetto calvario è solo lei? E tu che hai fatto? Io ho visto nero, mi si è chiusa la vena. Quindi io non ricordo manco che cazzo le ho risposto. Ma così come non ricordo un sacco di altre cose, Quando è stata l'ultima volta che abbiamo fatto l'amore senza programmarlo, per esempio? Quanto tempo fa abbiamo riso di gusto insieme? Io non me lo ricordo. Non ricordo quando è stata l'ultima volta che questo cazzo di bambino non ha fatto parte dei nostri discorsi. Negli ultimi 3 anni non siamo riusciti a condividere nient'altro. E io l'ho supportata, l'ho anche sopportata, però esisto anche io, capisci? E io ci ho provato ad essere paziente. Finché non ho capito che tanto non sarà più come prima. Lei è un'altra donna, sicuramente più forte. Io però mi voglio arrendere. E lei no. E io la rispetto per questo, eh. Però non voglio prenderla in giro. Noi due non esistiamo più, ecco. Ma scusa, tu lo vuoi ancora uno figlio? Non lo so. No, cioè, sai solo che non lo vuoi con lei? No. E l'ha capito anche lei e mi ha sbattuto fuori. Io non la biasimo. No. Però la giudichi. Scusa? E perché giudichi che vuole provare utero in affitto? Ma non hai capito, io non la amo più. Non mi far passare per una merda, eh? Ma no, ma io non cerco di farti passare per la merda. Però, Giuseppe, scusa, pensaci. Questa voleva una famiglia. Già non può avere uno figlio. Tu ora te ne vai così. Cioè, non provi proprio a fare niente di niente. E non sarei stato ancora più merda a fare questo figlio, a farlo crescere con due genitori che non si amano? Oh, tu hai sposato a lei, no? Hai scelto a lei, sì? E matrimonio è sacro. Ma fammi piacere. Sì, ma... matrimonio è sacro. E poi scusa, però sei anche un po' uno ipocrita. Vabbè, si dice ipocrita. Sì, quello. A dire che non vuoi pagare utero di altra donna. Sarei ipocrita io, eh? Perché? Sì, tu, perché lo sai che è una cosa che ha senso, che è pratica. Pratica? Ma che cazzo stai dicendo? Pratica? Allora, prendiamolo al supermercato il bambino, già che ci siamo, no? Pratica. Tanto basta pagare. Oh, va bene che sei rumena, però non te ne approfittare. No, scusa, non ti approfittare tu, eh? Più di un anno che vieni qua, non mi pare che ti senti tanto in colpa. Giuseppe, dai, parli di pagare utero di altra donna come una cosa brutta, poi vieni di una prostituta? E rigiona un attimo, cosa sei, una brutta persona, te? No, non penso. Disperata io, no. Cioè, tu sei un uomo con i tuoi bisogni e anche tua moglie ha i suoi bisogni. Non so, non si giudicano i bisogni, Giuseppe. No, dai. Io non la giudico. Semplicemente penso che questa cosa sia inutile perché penso che la nostra infertilità non sia solo fisica, ecco. Penso che sia anche nel nostro rapporto, capisci? Due persone che non si amano non dovrebbero insistere a cercare di fare un figlio. E se ci riuscissero, questo figlio non salverebbe di certo il loro rapporto, capisci? Sì, ho capito. Io ho capito che non la ami più. Però adesso tu mi devi dire perché lo vieni a dire a me. Così e adesso. Va bene, lo ammetto. Io e Sara ci siamo trascinati per anni. Sono stato sempre vicino perché le voglio bene, certo, perché ne abbiamo passate tante. Però tutto si risolve con una domanda. Voglio passare il resto della vita accanto a questa donna? E la risposta è no. E lo è da tempo, credimi, io non l'ho mica lasciata per la storia dell'utero in affitto, mi credi? Sì. Però questo non toglie che sei una merda, Giuseppe. Perché? Perché? Perché tu non hai davvero provato di salvare il tuo amore per questa donna. Ma tu che ne sai? Cosa ne so io? Io so solo che l'ultimo anno sei venuto qui. Hai tradito lei con una prostituta. Guarda che io penso che conoscerti abbia solo giovato a me e Sara. In che senso ha giovato? Giovato, ha fatto bene, ha portato gioia, questo significa. Ah sì? E io pensavo che se lei sapeva che venivi qui ti tagliava lo cazzo, altro che gioia. Guarda che io prima di conoscerti ero frustrato. In casa non c'era intimità. Oh, non mi si alzava più, a me. E come hai detto tu, io avevo i miei bisogni, mica è sbagliato, no? Guarda che se sono riuscito a tirare avanti ancora un anno è perché venendo qui io ho ritrovato la mia virilità. E anche Sara ne ha giovato, credimi. Ah, beh, bello. Però invece di trovare tua virilità in tua moglie... Virilità. Quello tu hai tradito. Non è che ti voglio giudicare, Giuseppe, però quello che dico è che se proprio tu non lo ami più, è perché, cavolo, non ci hai provato abbastanza. Cioè, invece di salvare tua intimità con lei, tu hai cercato fuori. Guarda che è diverso dal tradire, però. Sì, no, va bene. Allora, scusa, tue mani hanno toccato un'altra donna, il tuo cielo ha penetrato un'altra rosa. A me sembra che hai tradito. Ma io non mi sono fatto un amante. Io ho evitato di correre il rischio di innamorarmi di un'altra, perché mi conosco. Io ho preferito pagare ed evitare rischi. Pagando non espongo me al rischio di innamorarmi di un'altra donna o che un'altra donna si innamori di me. Io pago apposta. Vai. Ma secondo te c'è rimasto male Giacomino? Chi? Dico, ha capito che gli ho chiesto scusa. Che cazzo è Giacomino? Emanuele, si chiama Emanuele, non Giacomino. Ah, no, sì, scusa, che Giacomino è... No, vabbè, niente, è il figlio che ho avuto da Sara. È nato morto, per fortuna. degli esami, dagli esami avevano visto che era down, un po' come il tuo amico. No, è down, Emma. Vabbè, non lo so, insomma, però avrebbe avuto dei problemi sicuro. E non ti nascondo che all'inizio ci siamo fatti mille domande, eravamo spaventati. Vabbè, è normale, no? Come si fa a mettere al mondo uno che soffrirà tutta la vita? E la fatica, i costi per aiutarlo, no. La scelta giusta era l'aborto, punto, sì. Era la scelta più umana. Mi sentivo definitivamente più tranquillo. Era lei che non si poteva gestire. Mangiava sempre meno, sempre triste, non diceva una parola. La trovavo sempre davanti allo specchio che si guardava sta cazzo di pancia e piangeva e piangeva. Poi non ce la facevo a vederla così. Allora a un certo punto l'ho detto, teniamolo, dai. In fondo una vita è sempre una vita, no? Ne abbiamo parlato e alla fine... Sì, insomma, ci siamo resi conto che non siamo come quelli che vogliono figli fatti su misura, no? Sai, quelli con i geni di un cervellone, il fisico di una modella. No, perché oggi è facile scegliere il figlio da un catalogo. Quindi abbiamo deciso di tenerlo, ecco. Finalmente si era calmata e abbiamo cominciato a fare tutti i piani di due genitori in attesa di un figlio con problemi. Quando stava al sesto mese me la sono trovata a terra in bagno che gridava «Portami all'ospedale, portami all'ospedale!» L'hanno ammessa col codice rosso e dopo ore e ore il bambino è nato morto. Tornata a casa era un'altra donna. Mi rimproverava tutto il nostro rapporto, la scelta di non aver abortito e mille altre cose. Non voleva più che mi avvicinassi nemmeno per sfiorarla. E io ci ho provato in tutti i modi a starle vicino, Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso evidentemente è stata quando le ho portato i documenti per l'adozione. Mi incazzò come una iena. Soprattutto perché avevo segnato che avremmo adottato un disabile. Io pensavo di farla contenta, ma figuriamoci. Quella è stata la prima volta che mi ha buttato fuori di casa. Poi mi ha pregato di tornare, ma ormai era tutto incrinato. Vabbè, quel ragazzo di prima, forte, eh? Sai cosa sogno di notte? Che Giacomo è sull'isola che non c'è. È il più scatenato dei bambini sperduti, una vera peste. Il migliore amico di Peter Pan. Vorrei riuscire a parlargli, ma lui gli adulti li odia, ancora più di Peter. E ogni notte sogno di stare nascosto tra gli alberi e vederlo giocare. Oh, è un vero leader, sai? Ah, poi a pallone è il più forte di tutti. È solo che io non riesco a godermelo a lungo, perché a un certo punto tutti i bambini mi vedono, mi indicano e gridano una parola. Ripetono sempre la stessa parola che proprio non riesco a capirla. E allora mi salta il cuore in gola e mi sveglio. Un cino? Eh? Niente. Poverina tua moglie. Che c'entra? C'entra e secondo me hai sbagliato. Maria, senti. Tu devi tornare di lei. Devi perdonare lei, non dico che è facile, senti, Maria, però basta. Ci devi provare. Maria, basta! Poi negli sogni, quando vedi tuo figlio, prova di giocare con lui, no? Invece di stare nascosto, così puoi fare quelle cose che fanno i papà con i figli. Tipo? Calcio, gare di rutti, sputi, scoregge. Scoregge, ma che schifo. E vabbè, no, è quello che fate voi maschi. Che ne so io, scusa. Tu ci sei mai riuscita? Cosa, scoreggiare? No, quello so che lo sai fare. Scusa? Ah, io l'ho sentita stanotte. Ma non dire cazzate, io non scoreggio mai. No, se ti sei svegliata da non sola. Non dire cazzate. Ma ti sei pure affacciata per vedere dai, se dormivo. Guarda, zitto. Ti ho vista, eh. Sei volgare, piano. Guarda che non era proprio... Basta! Non era rumorosa, eh. Dai, su, non ti nascondere, scoreggina, su. Dico però, come ci riesci? Con i sogni, intendo. Non lo so. Cioè, io so solo che si può cambiare i sogni. E ci sei mai riuscita? Sì, tante volte. Come? Non è facile di spiegare. Provaci, dai, che sogni brutti avrai mai fatto? Brutti, orribili. Esagerata. Ah, sì? Vuoi che ti racconto uno sogno? Dai, forza, sentiamo, no? Peggio dei miei, la vedo dura. Ok. Siamo su di una nave. È buio, non si vede niente di niente perché noti. Però se ci affacciamo della nave e guardiamo al mare, vediamo che che è fermo e pesante, scuro, scuro, scuro, e capiamo che non è mare, ma è petrolio. Allora noi viaggiamo su questa nave di notte nello petrolio e poi sentiamo tante di risate. Risate di bambini, perché nave è piena, piena, piena di bambini e anche alcuni uomini. Pochi. Però è strano, Giuseppe, perché hanno tutti la stessa faccia, eh? E poi sentiamo di urlare. Sono urla, le urla degli bambini che hanno paura perché la nave sta affondando. Gli uomini prendono i bambini e li lanciano fuori di nave, ma loro non sanno nuotare. Allora noi cosa facciamo? Ci tuffiamo, no? Per salvare un bambino lanciato e sotto al petrolio, dentro al mare. Quando prendiamo la mano di uno bambino, ci giriamo e vediamo un grosso pezzo della nave sotto al mare. Dentro le luci ancora stanno accese e c'è una finestra davanti di noi con una bambina dentro, con gli occhi spalancati, che ci guarda. E è lì che ci svegliamo. Cazzo, fai proprio dei sogni di merda tu, eh? Ti ho detto. E sei riuscita a trasformarlo, questo sogno, come hai detto prima? Sì, con potere dei colori. Io decido. Decido che il mare non è petrolio, ma è lo cielo allo tramonto. E ci metto tutti i miei colori preferiti, lo faccio un po' giallo e rosa, con delle punte di rosso. E quando gli uomini lanciano i bambini non cadono giù, ma cominciano a volare. E insieme voliamo e giochiamo e facciamo agli uomini cattivi. Io ti amo. Vai via. Io ti amo. Non sai di cosa parli. Ti amo. Io ti amo. Nel mio cuore c'è posto solo per un uomo. E quello posto è già preso, quindi per favore vai via. E che cazzo è questo, eh? Dammi rete, vai via. Te lo dico io chi è. Si chiama Giuseppe. Mattia. Si chiama Mattia. E chi è? Oh, chi cazzo è questo? Sei sicuro? Dimmi chi cazzo è questo. Mattia è un fico. È più giovane di te. È più intelligente di te. E anche viaggiato più di te. E mi dice sempre che vuole fare di viaggiare anche me, così vedo qualcosa di nuovo anche io. Quindi è un vero uomo, Mattia. Che è pure romantico, sai? Tanto che quando parla, smette di parlare e dice che è colpa dei miei occhi perché ho una luce speciale. Questo è Mattia. Guarda, Giuseppe, su una cosa tu hai ragione, è vero? Io ho paura. Io ho una paura fottuta, sì, però io ho paura di perdere a Mattia. E non sai li pianti, quando glielo dico, quando gli faccio, ma che cazzo? Ma io non avevo paura di morte, di malattie, di tutte le cose brutte prima di conoscere a te, che cazzo, adesso ho paura di Dio? E lui mi fa, ma come hai paura di Dio? Dai, principessa, principessa! E io sì, è certo che ho paura di Dio, perché io mica lo so quanto tempo ancora ci vuole di lasciare insieme a te e a me. E sai cosa fa lui? Eh? Lui mi bacia le lacrime, mi accarezza, mi stringe forte, forte, forte e mi culla fino ad addormentarmi. E poi io lo sento che mi parla nell'orecchio, mi fa «Maria, Maria, te sei piccola, il mondo ti può fare ancora brutta di dentro». Ma non è possibile, no? Perché Mattia è il mio mondo. E infatti me lo sposo. Ti ho detto che mi sposo, Giuseppe. Mia famiglia non piace lui. No, però noi ci vogliamo di sposare. Uno giorno mi chiama e mi fa Maria, Maria. di prendere, ti porto in uno posto speciale. E mi porta in questa villa, nello verde. C'è niente intorno. Oh, cioè mi chiede di sposarlo nella casa dove andiamo di vivere. E io già sono lì che vedo i bambini che corrono nello cortile. Poi dentro casa è piena di stanze. Io le apro tutte e vedo la stanza, quella che sarà di bambina, che io... io lo so. Avrò una bimba con le riccioli e gli occhi grandi, sinceri, aperti, azzurri, come me di piccola. Però non faccio tanto in tempo di pensare, perché lui mi chiama, mi fa: Maria, Maria, vieni al piano di sopra, dai, che c'è la stanza più bella di tutte, c'è la stanza più bella di tutte. E io vado su, lui apre la porta e la stanza è vuota, c'è un materasso e una candela accesa. Lui vuole fare l'amore con me per la prima volta, perché ancora non... nella casa dove andiamo di vivere, lo giorno che mi chiede di sposarlo. Infatti mi prende in braccio, mi guarda la faccia, mi stende sullo materasso e mi fa: Maria, Maria, voglio che tu impari una cosa. Esci. E io sono un po' in imbarazzo, perché non siamo ancora sposati, queste cose non si fanno, il matrimonio è sacro. Però lo amo tanto, lo voglio fare l'amore con lui. Poi la porta si apre e entrano tre uomini. E io lo chiamo. Urlo. Ma Mattia non è venuto. Siamo anche fonici, no, tecnici, luci. Allora, grazie a tutti. Sì, sì, tanto almeno si vede meglio. Allora, grazie Beatrice, grazie Andrea. E allora, adesso partiremo con questo momento un po' di discussione post, in cui tratteremo un po' dello spettacolo, dei temi e quindi e della drammaturgia, ovviamente. Quindi inizierei proprio chiedendoti, Beatrice, di presentare magari un po' questo testo, okay, anche un po' dai suoi esordi, perché ci hai raccontato che appunto l'hai scritto tantissimi anni fa e che poi ha debuttato solo nel 2019, mm-hmm, e ora se vuoi nel 2025, per cui suppongo abbia avuto un percorso, un cambiamento anche nel tempo. Sì, sì, sì. E tanto grazie per l'opportunità, no, per parlare del testo, insomma, farlo conoscere e parlare anche di Pat, perché se ho, insomma, Petrolio sta girando è merito proprio di Gladys e di tutta la compagnia. Poi c'è tipo per tutto un discorso su come portare in scena un proprio testo, ho fatto molta fatica perché il testo l'ho scritto nel 2015, avevo 25 anni, cioè ho iniziato a pensare alla storia nel 2015 e poi ho trovato il modo per scriverla, e proprio a flusso di coscienza nel giro di due settimane l'ho scritto nel 2017, quindi è quando ho concretizzato la stesura, e perché sono tematiche talmente complesse, e il testo è stato risultato di anni di dibattiti a cuore proprio aperto sul concetto di bisogno, tant'è che il testo in origine, il titolo del testo era Bisogni, perché proprio mi interessava questo concetto di bisogni che sono sacrosanti, che non si possono giudicare, Poi però dall'altra parte c'è tutto un altro mondo, e io quando mi ero approcciata a questi concetti vedevo le cose con molta più ingenuità, e poi ho scoperto anche tutta la sporcizia che c'è dietro, il ciclo di denaro e di sfruttamento che sta dietro a questi discorsi. Diciamo per spiegare come è nato il tutto, avevo una coppia di amici molto cari che stavano avendo difficoltà a concepire un figlio, e insomma avevo parlato dell'idea dell'utero in affitto, che appunto ai tempi vedevo in maniera molto, molto più ingenua. Poi ho scoperto che si apre tutto un tema qua, perché si parla di coppie. Il punto è che quando ci sono i soldi dietro nessuno fa controlli, no? Quindi ci sono coppie che fanno figli per poi abbandonarli alla nascita se nascono prematuri, e questo poi nel testo si parla di queste cose, o con problemi, insomma ci sono una serie di cose molto delicate che si vanno a toccare, no? E l'altro tema, quello di sesso e disabilità, era dovuto al fatto che il mio allora compagno, oggi marito, che tra l'altro è lui che mi ha spronata a scrivere, e quindi diciamo che se questo testo è nato è anche grazie a lui soprattutto, perché se no non lo avrei scritto, non avevo questa fiducia in me stessa. E, perché tu nasci come attrice. Io nasco come attrice, sì. E avevo proprio, sentivo l'esigenza di parlare di qualcosa di interessante, di poter interpretare un ruolo interessante, e anche avere l'occasione, no? Perché comunque c'è tutto il mondo dei provini, avere delle opportunità è abbastanza complesso, e quindi perché non crearsele da soli anche, no? Se si vuole parlare di qualcosa. Quindi è nato in questa maniera qua. E poi quindi morale, l'ho scritto nel 2017, l'ho presentato a Istrio, è arrivato semifinalista quell'anno, e poi ci ho messo tantissimo a riuscire a metterlo in scena. È andato in scena nel 2019, autoprodotto, quindi con i miei soldi, non capivo una cippa a livello di agibilità, vai all'INPS, ho fatto un disastro. Però sono riuscita a metterlo in scena con molta fatica. E poi appunto grazie a Pat sono poi riuscita a portare avanti lo spettacolo. Sempre con te come personaggio principale? Sì, sempre con me come Maria. Al debutto c'era un altro cast, e poi con Alessio regista. Ok, e poi negli anni regista di questo, cioè della messa in scena che ci sarà domani. Sì, sì, sì, sì, Alessio è sempre stato il regista, diciamo che poi è subentrato proprio come attore. Che ha avuto più senso anche per una questione di età, secondo me. L'attore che interpretava Giuseppe prima era 10 anni più giovane di Alessio, e questa differenza di età tra i personaggi per me ha importanza, soprattutto quando sto interpretando il ruolo di Maria, perché un po' lo vede come una figura. Non dico paterna, però influisce tanto il fatto che sia così tanto più grande di lei. Qui parlo di me attrice, ok? Sì, sì. E poi sono tre personaggi che, essendo tre generazioni a confronto, hanno proprio un vissuto completamente diverso. E poi la tematica invece di sesso e disabilità appunto è nata perché mio marito lavorava in una cooperativa per ragazzi disabili e mi ha parlato di questo tema, del fatto che i ragazzi quando raggiungono la pubertà hanno questa esigenza e non ci sono grossi modi per rispondere, se non genitori che li portano da prostitute, ma poi dopo insomma i ragazzi vogliono continuare, comunque sia devi trovare una situazione pulita che ha i suoi costi, cioè madri che arrivano a fare le seghe ai figli, sono cose brutali da dire, ma ragazzi il problema c'è quando si va a reprimere un istinto innato umano, così è difficile. C'è l'associazione, ci sono associazioni di assistenza sessuale ai disabili, in Svizzera c'è proprio la figura dell'assistente sessuale, ma in Italia ancora non è legale. Ma comunque già l'educazione sessuale è poco esplorata, e immagino fatto. Poi per i disabili c'è, cioè pochissimo, non vengono considerati, non viene considerato che anche loro hanno dei bisogni e delle, cioè un libro, Le cugine si chiama, che parla proprio di questo, cioè è scritto dal punto di vista di una ragazza che soffre di autismo, e a un certo punto al ciclo, ma nessuno le ha spiegato, e E quindi comunque è un tema che viene poco affrontato, cioè secondo me è un tabù che è molto interessante scardinare. Sì. E mi chiedevo come tu fossi riuscita a entrare in ciascuno di questi personaggi nello scriverli, perché almeno dal poco che ho sentito, cioè li sento molto tridimensionali, quindi e sono personaggi comunque difficili perché appunto vivono dei drammi che sono anche dei tabù in qualche modo. Cioè come fai a entrare nei panni anche scrivendo di un personaggio che soffre di disabilità? Ma allora, come ho detto prima, sono stati 2 anni di riflessioni. Io penso che molto combaci anche col fatto che sono un'attrice e che quindi amo tanto empatizzare, osservare, mettermi nei panni delle persone e farmi domande, no? E quindi probabilmente nello scrivere ciascun personaggio ho cercato di entrare nel suo mondo come farei approcciandomi a un personaggio proprio da attrice. Ok, ti devo conoscere, devo sapere qual è la tua storia passata, quali sono le tue paure, devo umanizzarti. C'è anche il personaggio di Giuseppe che fa delle cose, poi oggi non l'abbiamo letto tutto il testo, però non è proprio una persona facile ecco. Però è sempre un essere umano con le sue paure ed è fatto in un determinato modo perché. E ci tenevo che non ci fossero antagonisti, magari un po' eccessivo da dire per te che conosci tutto il testo, però sì, cioè che ogni personaggio avesse le sue sfumature, le sue sfaccettature. Infatti Petrolio una storia a colori, cioè le sfumature sono importanti, non c'è il bianco e il nero. Quando si parla di utero in affitto e lei gli dice ti sembra una disperata, io poi alla fine vai a vedere quella che è la sua storia. Sesso e disabilità, sì, è importante, questa esigenza c'è. Magari creiamo la figura dell'assistenza sessuale, perché poi si parlava legalizzare la prostituzione oppure no, ma chi c'è dall'altra parte, chi sta? Sono tutte delle tematiche talmente ampie delle quali sinceramente pure io alzo le mani. Cioè io, una cosa che a me che, verso la quale faccio molta fatica è la paternale fatta teatro. Cioè penso che è giusto esporre le proprie opinioni e mettere le carte sul tavolo, ma non ho la presunzione di avere delle risposte. Ed è per questo che proprio ci tenevo a creare tutte le sfumature possibili per questi personaggi, per dargli la possibilità di far vedere il loro punto di vista, no? Quindi sì, ecco, scusate, io parlo tantissimo. No, che poi alla fine quello che pone il testo sono domande. Quindi è anche, però anche è bello potersi porre delle domande su mondi che esistono e che a volte non approfondiamo e lasciamo un po' lì. Trovo molto interessante, mi stupisce il fatto che comunque nel 2015, che avevi un'altra età, ti fossi messa a riflettere su tematiche del genere. E anche mi chiedo se nel corso degli anni il testo, anche vestendo veramente i panni di quel personaggio, sentendo i personaggi vestiti da altre persone, perché poi nel lavoro anche dell'attore, magari fossero emerse altre sfumature di personaggi e come il testo è cambiato, se c'è qualcosa che hai tolto, perché poi mentre parlavi dicevi anche ah sì, allora ero più superficiale, cioè sentivo un velo di forse non so, magari non avevi, anche questo testo ti ha permesso di approfondire anche quei temi e magari entrare davvero dentro quell'argomento che magari ti interessava. Quindi la domanda che fai a noi magari te la sei fatta, anzi probabilmente te la sarei fatta, anche io parlo tantissimo. Vabbè, quindi queste sono un po' le cose che... Come è cambiato negli anni, sì. Diciamo. Sì, è cambiato tanto, ma soprattutto grazie all'intervento di Alessio. Perché di nuovo la questione delle generazioni a confronto, cioè quando io avevo 25 anni ero molto più ingenua magari, no? Quindi c'era tutta una scena sui colori che a me piaceva da matti e Alessio da regista, perché poi c'è questo, quando scrivi un testo, se tu lo affidi a un'altra persona ti devi fidare di quella persona e accettare che insomma faccia anche faccia il suo, no? Quindi ci sono state delle rinunce che ho dovuto fare, ma che con senno di poi sono contenta di aver fatto, e hanno, la gran parte di queste hanno avuto a che fare proprio con il personaggio di Giuseppe. E lui all'inizio, quando ha iniziato a lavorare sul personaggio di Giuseppe, lo ha fatto da regista, non da attore, è subentrato dopo, gli ho chiesto proprio io di farlo lui. E quindi probabilmente di nuovo questa questione qui delle diverse generazioni. Io a 25 anni cosa potevo sapere della mente di un uomo sposato da 20 anni, over 50, e del suo vissuto, no? Ho fatto il meglio che potevo, però magari sono stata un po' ingenua su alcune cose, no? Quindi non ha cambiato tanto il testo quanto la sua interpretazione di Giuseppe. Quindi, cioè, con le stesse battute, a seconda di come le interpreti, tu mi puoi far vedere dei mondi completamente diversi, no? Quindi io avevo un'idea di come andava interpretato Giuseppe, me l'ha capovolta. Okay. e però è bello, è interessante, perché poi io ho scelto Alessio come regista. Lui non è un regista in realtà, è un attore, è un collega che stimo tantissimo, l'ho conosciuto poi come coach, figuriamoci. E ho scelto lui proprio perché questo è un testo che ha bisogno, è tanto surrealismo e la provocazione tra i personaggi, quindi volevo un regista che stesse tanto dietro agli attori e meno dietro al resto. Probabilmente sbaglio, perché l'occhio vuole la sua parte a teatro, però è così che è nato e che sta andando avanti. Ma mi piace perché è fresca ogni sera. Noi questo spettacolo lo facciamo dal 2019, non ci stanchiamo mai, e di anno in anno troviamo cose nuove, anche se il testo è lo stesso, e di replica in replica ci divertiamo come se fosse la prima volta, e scopriamo cose nuove, e ti arriva la battuta in un modo che non ti aspettavi, allora tu in quel momento sei lì, sei Maria che rispondi a Giuseppe che è uno stronzo, ok? Oppure che ti strappa il sorriso. E quindi all'inizio è voluto a tavolino tramite Alessio, e poi di replica in replica proprio facendola. Ma mi chiedo questa cosa, perché non sei la prima, anzi direi che praticamente quasi tutte le autrici che abbiamo invitato nascono prima come attrici, e poi, tranne una, l'eccezione che conferma la regola. E quindi mi incuriosiva un po' questa cosa, ne abbiamo parlato anche con altre autrici, appunto, di capire come, diciamo, come ti poni, anche che senso magari ha per te il teatro, quindi in questo senso se è una figura in cui ti identifichi singolarmente, o se invece ormai magari è una figura che un po' è insieme quella della drammaturga e dell'attrice. Mm-hmm. Tu come, diciamo, anche appunto in questo senso, che senso ha per te il teatro, e quindi se, cioè, come ti poni rispetto di fatto al tuo mestiere, se... Non so, penso magari a qualcuno che ascolta e che magari si approccia a questa cosa per la prima volta, come anche viversi questo cambiamento, o non so, sì, se no, per te magari è nato appunto, come dicevi, da una cosa personale, da tuo marito, eccetera, però non so se poi c'è anche una cosa tua personale di avere l'esigenza di dire e non solo più dire. Cioè. Di rappresentare, sì. Sì. Sì, poi si è sviluppata in questa maniera, cioè è nata appunto da questa esigenza personale come molte probabilmente delle attrici e drammaturghe con cui avete già parlato. Chi fa teatro lo fa perché ha bisogno di nuovo di farlo, cioè se no sei fuori di testa, cioè, razionalmente non è un mestiere che ti fa stare tranquillo, diciamocelo, no? E quindi avevo questo proprio mi mancava l'ossigeno, perché non lavoravo, perché non avevo modo di mettermi in gioco, e lì appunto sono stata spronata a scrivere, e poi ho scoperto che la scrittura mi piaceva tantissimo, e poi facendo lo spettacolo e vedendo la reazione della gente mi è proprio piaciuto dare vita a questi personaggi e raccontare la loro umanità, ed è questo che mi piace fare quando scrivo. Si è presentata l'occasione per scrivere un nuovo testo tanti anni dopo, che ha debuttato l'anno scorso, e tutto nasce dal tema, è nata dal tema questa cosa qui, perché mi è stata proposta, ma poi sono entrata di nuovo sull'ok, come faccio vedere, come faccio a non creare antagonisti, che poi ci sono di fatto, ma come faccio a creare dei personaggi che hanno tante sfaccettature e a parlare di questa tematica. Poi boh, di nuovo, quando poi scrivi entri in un flusso di coscienza, alla fine vai un attimino a rivedere, magari anche con degli input esterni, dai le tue aggiustate, ok. Però sì, oggi, per rispondere alla tua domanda, scusate, straparlo, il senso che ha per me il teatro è questo, cioè nel senso, sì, per i temi, che sì, magari anche un'esigenza di proprio drammaturgica, cioè di non avere magari dei testi che parlino di cose che senti più vicino a te. Sì, sì, sì, perché scusami, perché io ho iniziato facendo tutto sto cappello introduttivo e poi sono partita per la tangente, però perché sì, all'inizio era ho bisogno di recitare. E adesso è per me il teatro è questo, è parlare di un qualcosa, anche perché negli anni maturando, cioè non è neanche più voglia di farlo tanto per farlo, di farlo giusto per avere l'applauso del pubblico. Poi sì, hai voglia di lavorare perché è il tuo mestiere e i soldi li vuoi portare a casa. però dopo un po' non ti dà più soddisfazione fare, capito, la commedia che attira soldi. Senti che hai bisogno di un po' più di ciccia, e allora te la crei e parli di qualcosa di interessante, e allora ha senso continuare a farlo, perché sennò di nuovo diventa timbrare il cartellino. Ecco, per me a 25 anni non avrei mai detto un giorno fare teatro potrebbe essere timbrare il cartellino, e invece quando poi inizi a lavorare e entri in diversi tipi di progetti, alcuni, capito, fai per 3 mesi magari lo stesso spettacolo, che però è giusto, vado il pubblico ride, batte le mani e dici vabbè, ho timbrato il cartellino, no? Ho bisogno di qualcosa di più. E quindi E Petrolia nasce dal tema bisogni, giusto? Sì, nasce da questa dalla complessità del fatto di avere dei bisogni, e dici vabbè, ma la risposta è semplice, c'è una risposta a questo bisogno adesso, aspetta un attimo, chi c'è dall'altra parte? E poi quando una cosa che mi piace, che ho capito del testo, tra l'altro facendo negli anni, è che poi il bisogno comune di questi tre è colmare la solitudine, è amare. Poi sembra banale, un po' cheesy, però caspiterina, sono così diversi ma hanno esattamente lo stesso tipo di bisogno e cercano una risposta a quel bisogno tutti e tre in maniera completamente differente. Poi il ragazzino e il mezzo età, l'uomo in crisi di mezzo età, lo cercano dalla prostituta. Sì, diciamo che quello è stato, voglio parlare di questa tematica, utero in affitto e sesso e disabilità, prostituta e due clienti, scusa un attimo, perché poi appunto la questione del corpo femminile, che in un caso si presta per la gestazione di altri e in un altro si presta per poter essere toccato e insomma per dare calore, sempre di corpo femminile si parla in maniera completamente diversa magari, però quello è, e quindi lì è nata, mi è venuta l'idea, e da lì ho sviluppato i personaggi, insomma. Che poi lei diventa anche un po' una confidente di entrambi. Sì, lei si deve dare un senso a quello che fa, di nuovo, no? E quindi non può essere solo il fatto di darmi sessualmente, mi voglio dare un valore in più. A parte il fatto che poi si affeziona proprio a questi due clienti nello specifico, di uno si invaghisce anche, però lei ha tutto un suo mondo, di nuovo oggi non l'abbiamo letto tutto, però lei è dipinge, in passato aveva studiato in accademia, quindi ha questa passione per i colori, quando dice metto tutti i miei colori preferiti, il giallo, l'azzurro, è perché lei trova luce in quello, nei suoi giorni liberi, che i clienti non la devono contattare, lei disegna. Ok, quindi sì. Posso farti una domanda, Andrea? Mm. Mi chiedo se vuoi raccontare un po' come è stato per te interpretare questo personaggio, approcciarti a questo testo, in questo caso da attore e non da autore. L'altra volta, ieri, un mio amico mi ha detto ma tu ti diverti fare questo spettacolo, nel senso che, vista la tematica così difficile, visto il ruolo è difficile, perché adesso qui stavo in piedi, non potevo fare nulla, ma in realtà tutta una disabilità anche fisica, e quindi la difficoltà nel camminare eccetera, quindi è anche difficile fare, magari non so quanto dura quella scena, però 10 minuti, tutto, mi fa, ma ti diverte? E io ho detto come nessun altro spettacolo, cioè questo spettacolo mi diverte in una maniera assurda, per quello che diceva Bea prima, sia per il testo che il personaggio effettivamente è divertente in realtà. E poi per la condizione in cui ci ha messo il regista, cioè di ascoltarci, ed è una cosa che, per quanto sia banale, per quanto si insegni all'Accademia, cioè nelle scuole in generale, non l'ascolto, ma non si fa poi così tanto. Cioè, o ti capita la commedia dove devi per forza rispettare quei paletti, oppure ti capita il dramma che è un'altra cosa, è un po' più difficile, insomma, vabbè, sono altre cose. Qui c'è talmente tanto ascolto e possibilità che le cose cambino, siano diverse ogni sera, che quindi mi fa stare sempre in ascolto. È come sto adesso, cioè è come, faccio un esempio banale, però è come adesso che tu da un momento all'altro potessi chiedermi qualcosa e io potrei rispondere. Esatto, quindi sto sempre così ed è divertentissimo. Per arrivare poi al personaggio, all'inizio sono andato un po' in pappa, perché dicevo che faccio, oddio, così con l'ago su giù, non lo so. Poi non mi ricordo neanche come ho proposto una cosa, non mi ricordo cosa ho proposto, un atteggiamento così, e il regista poi quando mi ha visto mi ha detto no, esagera, e poi da lì è diventata una cosa nelle mani, nei tic, nelle cose così, e niente, è in corso d'opera, anche la mia interpretazione è stata modificata in corso d'opera, cioè più delle cose funzionavano e più magari le accentuava, alcune cose di meno, insomma è stato tutto. E rispetto alla sua, cioè, la sua riscoperta del desiderio, cioè di questo personaggio intendo? Ma il modo, almeno per come io entro nell'ottica di Emanuele, il personaggio, a me piace definirlo come un bambino viziato, punto. Cioè, nel senso che ovviamente non sto lì da un punto di vista esterno che dice anche questo ragazzo disabile, cioè non è che io sto lì e dico io sono un ragazzo disabile, quindi dovrei fare questo. Cioè, per me io, oddio che bello, cioè, si tocca, mi si tocca, no, dai, metti la mano, cioè, dai, cioè, sto qui apposta, metti la mano, uffa, cioè, pure dopo farà delle cose proprio, ti butto questo, capito, si diverte, quindi per me è quello, è. Che bello, vado da fatto da Maria. E lavorando con quel testo lì scritto da Bea, mentre vestivi questo personaggio, non hai mai sentito l'esigenza di dire qualcos'altro rispetto a quello che c'era scritto nel testo? No, perché è stato equilibrato molto bene. C'ho la mia vendetta con Giuseppe, perché lui è, non so se può dire, sì, abbiamo spoilerato anche il finale, adesso si possa dire. Perché a un certo punto poi noi ci incontriamo anche lui, perché io sto in crisi perché mia madre non è venuta, di solito viene sempre alle 10 a riprendermi, non viene, quindi mi impanico, insomma sembra che stiamo un po' litigando io e lei, ma in realtà no, però sembra, quando entra Giuseppe ci vede così, fa per dividerci, gli do una botta e quindi si crea un qualcosa, una rottura, io mi inizio a urlare, e lui quindi mi, sempre perché è uno burbero, mi tratta in maniera un po', oh coso, senti, non avevo capito che sei così, vabbè senti, ma com'è, insomma, vabbè, e c'ha sto discorso con me, e solo che poi mi va sul cavolo, e quindi mi prendo la mia rivincita e quindi sto lì che... No, vabbè, non vado a spoilerarlo, perché le cose vanno molto lì. Questo domani. Se non venite. No, vabbè, no, comunque no, non c'è cose, perché in realtà è tutto giusto. Cioè, ecco, un'altra cosa, che quando vado via, cioè quando io esco dalla casa di Jessica, e quindi poi dal parco, io mi sento proprio soddisfatto. Cioè, non so come dire, io Emanuele, ok, esco e insomma, si dice, cioè sono contento, i miei bisogni sono stati appagati, oh, ho fatto tutto, bello, me ne vado a casa, cioè nella, capito, nella testa del personaggio, no? E quindi mi sento completamente ricompensato, non so, è appagato, e poi pure da attore è appagante, perché... E il vostro, invece, il vostro rapporto col pubblico, cioè nel senso, in parte vi chiedo a entrambi come è stata la risposta del pubblico da quando avete iniziato a ora, e appunto anche un po' il vostro interesse di dialogo, cioè quello che vi aspettereste di suscitare, o anche, non so, nella prospettiva di, del futuro di Petrolio, che cosa, cosa vi immaginate? Ma la risposta è stata positiva, perché appunto lo spettacolo sta continuando a girare, quindi c'è un bel passaparola, e anche a Roma l'abbiamo fatto tanti anni di fila, e a una certa il pubblico finisce, invece non è che abbiamo fatto sold out tutte le sere o chissà cosa, però siamo riusciti a portarlo ogni anno in scena con un buon pubblico, perché c'è stato appunto il passaparola. I commenti sono... Cioè, la cosa che a me piace di più in assoluto è quando mi viene detto, e sono state più persone a giorni di distanza anche, che mi scrivono sui social: guarda, cioè, passano i giorni, e più passano i giorni più mi rendo conto di quello che è stato detto su quel palco senza essere stato detto. E per me quello è il complimento più grande. E poi proprio non so, vedo la gente quando esce dal teatro che sta metabolizzando. A me piace andare a teatro, vedere qualcosa e metabolizzarlo dopo. Mi piace ridere a teatro, cioè il bello è che sentiamo il pubblico che è con noi, che ride, si diverte durante le provocazioni, che cala il silenzio quando si entra nei mondi dei personaggi. È bello. E poi ogni pubblico ovviamente a sé, ogni sera cambia anche grazie al pubblico. È proprio bella l'onda che si crea. Il bello del teatro, cioè, entriamo tutti in una bolla, quindi non so, io in futuro spero che Petrolio possa continuare a calcare sempre più palcoscenici e raggiungere un pubblico sempre più ampio, però a livello di reazione non vorrei niente di diverso, sinceramente. Sono proprio appagata così, cioè, ripeto, quella frase, quello che è stato detto senza essere stato detto, mi ha toccata molto. No, se il discorso dell'ascolto, lo diciamo prima, del regista che ci ha messo in questa condizione di ascoltarci, di conseguenza si riflette anche col pubblico, come dici tu, perché effettivamente tu senti, cioè, non so, è una cosa che noi attori, poi una volta fatta l'abitudine percepiamo, cioè che si percepisce se c'è ascolto, sì. Se c'è noia, se c'è risata, così. E almeno ogni volta, da quando ci sono io, è sempre, siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè, se c'è un momento di tensione, si sente la tensione. Se c'è un momento di comico, sempre fa ridere. Ma non perché, nonostante si sa che la comicità sia matematica, quindi, però perché c'è un ascolto che poi rende... Cioè, quella cosa magari fa ridere anche me, attore, sì, sì, capito, anche me, fa ridere anche me, e poi un po' non fa ridere anche lui. Cioè, l'ascolto del pubblico è direttamente proporzionale, esatto, agli attori. E quindi il rapporto col pubblico, mi piace, di questo spettacolo è il qui e ora, cioè il sentire adesso, qui, come stanno, e poi io purtroppo sono fatto così, cioè dopo non mi interessa, cioè a me dopo andare fuori, né che siano complimenti, né che siano... non mi piace, cioè la trovo la parte un po' più incusta, un po' più in difficoltà. Proprio mi chiudo, però lì è meraviglioso. No, infatti pensavo a tutti i temi che ci sono dentro questo spettacolo, e poi il ritmo che ha, no? Cioè, ho visto, sono tante domande. È difficile fare anche adesso per me fare delle domande, perché sto metabolizzando. Quindi sì, pone tanti punti interrogativi, e sì, magari domani ti farei delle domande più. Però infatti noi di solito durante le puntate chiediamo anche al pubblico se ha delle domande, però non so se il pubblico ha delle domande. Chissà. Qualcuno vuole esporsi? Troppi. Stanno metabolizzando. No, beh, allora, se non so se avete qualcos'altro che volete dire, o Marti, vuoi fare qualche domanda? Se no, vi liberiamo. No, pensavo al lavoro sul linguaggio, in riferimento ai personaggi. Ah, no, ok, la parlata. Sì. Ma per me Maria è nata come personaggio in questa maniera, l'avrei anche potuta fare italiana, ma il personaggio di Maria non c'entrava niente con il testo che poi ho scritto. È nato da un esercizio in classe in cui mi avevano insomma, ha detto di interpretare una ragazza dell'est, inventandomi un monologo, in una classe di teatro, e mi sono appoggiata. Io sono cresciuta, la mia tata, la mia Maria, sono cresciuta con lei che mi parlava così, molto schietta: su, alzati, dai, che devi di andare alla scuola, no, non mi frega uno cazzo niente, muoviti. C'è questo atteggiamento proprio di tough love. E quindi quando l'ho scritta, quando scrissi quel monologo, mi ero appoggiata molto a lei, alla sua parlata. E poi, vabbè, poi negli anni Maria è diventata Maria, proprio lo faccio talmente tanto che mi sono completamente abituata a quel tipo di parlato. Poi c'è una battuta in rumeno all'interno del testo, quindi mi sono fatta dare una mano nella pronuncia, però sì, la parlata di Maria nasce da una vera Maria che è moldava, tra l'altro. E ha visto lo spettacolo? No, però, perché ora che lo facciamo a Milano, l'ho invitata, sì. Quindi spero che venga. Beh, certo. Bello. Beh, certo. Voglio sentire. C'ho un po' paura perché lei è non si fa così. Lo sa lei, che la parla, lo capirà, immagino. Però sì. Poi è bello perché adesso non, ovviamente non ci vediamo da tanti anni, però ogni tanto c'è la telefonata su Zoom di aggiornamenti e quant'altro, quindi insomma è molto contenta che adesso lo portiamo qua. E la parlata di Emanuele? Sì, Emanuele. È più un lavoro tu, però anche tu, no? No, quello è lavoro suo. Sì, c'è chi dice, poi dopo, vedendo lo spettacolo, c'è chi dice che somiglia un po' a... Ovviamente non è un paragone, ci mancherebbe, sennò. Però buon compleanno Mr. Grape cioè con DiCaprio. In realtà io quella cosa ho preso spunto per essere un po' così giocherellone, un po' viziatello, un po' così. Però poi in realtà la parlata forse all'inizio era un po' meno, cioè che era un po' più difficile, e adesso me l'ha fatta già, quindi è un po' più difficile. E magari lo esagero, però sì, anche là è nata non con un'improvvisazione, ma con un al momento, falla, no, di più, ok, di più, vabbè, okay. Un po' di meno, un po' di più, basta, ok, questo, perché poi in realtà sì, le devi fare, sì. Le cose si costruiscono, cioè appunto facendola, poi la, cioè, però in realtà alcune cose sono molto più semplici rispetto a, no, uno si immagina, Dio, il disabile, chissà che cosa enorme. O non per sminuire, però, cioè, magari uno fa, lo rifà, si sì, lascia e si affida. Buttati anziché, ecco, stare nella testa, sì, come attore, no? Sì. Sì, no. Forse la cosa più difficile è affidarsi. Io mi sono completamente affidato ad Alessio, ho detto, fai tu, cioè, fai di me ciò che vuoi. Plasmami tu. Sì, plasmami. Io ho detto, no, vai più qua, io mi sono affidato e è andata. Molto contento. E mi chiedevo com'è riscoprire i propri personaggi, come parlano... perché comunque, se lui mi dice, cioè tu quando l'hai scritto in un modo ce l'avevi in testa, sì ce l'avevo in testa e così è rimasta, cioè okay. Per me è lei, no io parlo di degli altri personaggi. Ah, riscoprire, ok, grazie. In realtà per me è stato più strano Giuseppe rispetto a Emanuele. Cioè Emanuele ha preso, perché non è tanto che immaginassi la parlata mentre lo scrivevo, era più proprio il rapporto tra loro due che è stato centrato alla perfezione. E Giuseppe, ripeto, essendo cambiata tanto l'approccio sul personaggio, perché io l'avevo scritto da 25enne senza l'esperienza di un cinquantenne, e quindi anche la voce meno tenera e un po' più burbera, quello mi ha fatto effetto le prime volte, no? Adesso ormai lo facciamo da talmente tanti anni che sto là, quindi non mi fa più strano, però nella fase appunto di creazione della messa in scena, quella è stata quella che mi ha stranito di più. Su Emanuele non avevo, cioè non so neanche... nella mia testa come immaginassi la parlata, sinceramente non era più una questione di rapporto proprio. E poi quando ho preso vita, sì, è quello che avevo in testa. Sono spiegata. No, mi chiedevo, cioè, nel momento in cui l'hai scritto, poi l'hai provato in scena, se vedendolo vivere, non ti fosse venuta voglia di cambiare delle cose? Sì, no, beh, il primo anno, quando Alessio ha messo le sue mani sul testo, che poi era il mio primissimo testo, e ovviamente, cioè, era anche più lungo, no? Perché ce n'hanno scene magari più lunghe sulle quali mi sono dilungata, i tagli, le cose, io li ho sofferti, perché poi era il mio primissimo testo, cioè, nel senso, era proprio, ma l'ho scritto io la voglio così, io l'ho immaginata così, e invece non si fa così. Però poi dopo ho capito perché aveva tutto senso e ha raggiunto, secondo me, il punto giusto. Cioè, alcune cose non erano necessarie. Però sì, è tutto un tema quello dell'autore che si affida al regista. Cioè, a una certa diventa un lavoro di squadra e la visione deve essere comune. Non puoi imporre la tua. Allora ti fai la regia tu, te lo interpreti da solo, però è una cosa chiusa, cioè è bello per me che alla fine si sia plasmato Giuseppe in quello che è diventato, perché ha portato il suo contributo una persona che ha un vissuto tale per cui può capire meglio quel personaggio, e va bene così. Però sì, a 25 anni, che avevo un po' più di che avevamo forse un po' troppa presunzione, ecco, ero un po' più presuntuosa. L'esperienza non è facile, cioè, staccarsi dal testo. Sì, sì, è stata dura, però alla fine ci sta. Quindi sono contenta del risultato, ecco. Bene. No, quindi se non ci sono altri pensieri, parole? Beh, no. Speriamo di vedervi. Esatto. Nei giorni. Ricordiamo lo spettacolo che esatto debutta domani fino al 25 di gennaio, sì. Quindi vi consigliamo caldamente di venirlo a vedere per intero e vi ringrazio, Beatrice. Ricordiamo che poi questa puntata sarà online su Radio Exalge, esatto. Che si potrà riascoltare, e i prossimi appuntamenti saranno il 22 gennaio a Exalge con Desidera di Giulia Di Sacco, che sarà poi in scena al Teatro dei Filodrammatici, e Romanzo di un'anamnesi al Bar Leila di Milano con Sara Parziani. Bravissimo. Il 9 febbraio. Esatto. Fino al 9 febbraio. Grazie. Grazie.